Guglielmo a capo in giù. Appena sveglio, Guglielmo corse al circo. Era tutto pronto. I baracconi del tiro a segno, i chioschi dove si vendeva il cocco e le giostre erano montati intorno al grande tendone. C'era un piacevole odore di cavalli, di segatura, di olio caldo e di fumo che proveniva dalle cucine all'aperto. Guglielmo seguì l'odore e infatti trovò tutta la gente del circo riunita dietro il grande tendone. I ragazzi e le ragazze che cavalcavano i pony, gli uomini che guidavano i carrozzoni e gli autocarri, e quello che il giorno prima gli aveva detto: torna domani. L'uomo stava seduto su una cassetta d'arance rovesciata, con una tazza di tè in una mano e una fetta di pane e formaggio nell'altra. Davvero? Ho detto così? Fece. Hai detto niente male, torna domani, replicò Guglielmo, e si mise a capo all'ingiù per fargli ricordare la faccenda. Questa volta ebbe anche un piccolo pubblico di gente che lo applaudiva e lo lodava. «È bravo! Quanto e più di voi!» disse uno dei grandi al gruppo di ragazzi e ragazze. «È molto più giovane!» fece un altro. «Che altro sai fare?» Guglielmo si raddrizzò. Non gli era venuto in mente che avrebbe dovuto saper fare qualcos'altro. Voglio dire, potresti farlo sul filo o sulla schiena di un cavallo. Lo posso fare su una mano sola, ma non a lungo, rispose Guglielmo. Fategli vendere i biglietti fuori dalla tenda a capo in giù, disse qualcuno. Giusto, fece un altro. Lo spettacolo inizia già all'ingresso. Va bene, accordò l'uomo. Ma non posso darti molto, giusto i soldi per i gelati. Guglielmo non credeva ai propri orecchi. Faceva parte del circo. Una tazza di tè e una fetta di pane e formaggio per questo giovanotto, disse l'uomo. Che dirà la tua mamma? Chiese un simpatico donnone. Beh, mi ha detto di rendermi utile. E io lo faccio, no? Preparatevi! Disse l'uomo. La gente del circo, nei costumi di scena, sembrava diversa. Le ragazze portavano delle tutine attillate, ricamate di lustrini e piume e gioielli fra i capelli. I ragazzi avevano camicie di seta e fibbie sulle scarpe. I pagliacci si erano dipinti il volto e Guglielmo non li riconosceva più. L'uomo, che sembrava il padrone, aveva una giacca rossa, un cappello a cilindro e un grosso frustino in mano. Guglielmo non vedeva l'ora di vederli al lavoro. «Ehi tu, Guglielmo a capo in giù!» gli ricordò il donnone. «Il tuo lavoro è all'ingresso insieme a me!» Era seduta dietro un tavolino vicino all'entrata della tenda con accanto una scatola piena di biglietti che stava collocando per terra davanti a Guglielmo. Guglielmo non poteva smettere di pensare che la sua parte nel circo era fuori e non dentro, dove c'era tutto il divertimento. Esitò un momento, poi, ubbidiente, si mise a capo in giù vicino al tavolino. «Affrettatevi, affrettatevi!» gridava la donna. «Prendete i biglietti da Guglielmo a capo in giù e andate a godervi il grande spettacolo! È nato in questa posizione questo ragazzo! Quello che voi fate in piedi, Guglielmo, lo fa a testa in giù! Affrettatevi, affrettatevi!» La gente si avvicinava. Stivali, stivalini, scarpe, zoccoli e sandali. Questo era quanto Guglielmo riusciva a vedere del pubblico. Capiva di loro solo quello che la donnona diceva. «Due per il signore con la camicia azzurra! Tre per la signora col pullover giallo! Quattro per i soldati con la medaglia!» Quando tutti furono entrati, Guglielmo ebbe il permesso di dare un'occhiata dal di fuori, ma non poteva entrare nel tendone, perché poteva arrivare ancora qualche ritardatario e lui doveva essere pronto a rimettersi a testa in giù. Cominciava a stufarsi e poi sentiva tutto quello che succedeva là dentro, lo schioccare del frustino, il rumore degli zoccoli dei cavalli, le risate del pubblico che si godeva tutto lo spettacolo che invece lui perdeva. Ci fu una pausa e poi tutto ricominciò. «Affrettatevi, affrettatevi, prendete i biglietti da Guglielmo a capo in giù e andate a vedere il grande spettacolo! È nato così questo ragazzo, quello che voi fate in piedi Guglielmo lo fa a capo in giù! Affrettatevi, affrettatevi! Uno per la signora con i fiocchi di seta sulle scarpe!» stava dicendo la donna. Guglielmo riconobbe immediatamente le scarpe. Erano nere, lucenti, con dei fiocchetti neri, le stesse scarpe che aveva riportato a casa dal calzolaio 2 giorni prima. «Guglielmo, alzati subito!» Guglielmo fu così felice di questa richiesta che non gli importò se la mamma era arrabbiata. Si drizzò in piedi e rimase lì ad aspettare. «Guglielmo, ma come hai potuto farlo?» chiese la mamma. «E lo faceva benissimo! È un ragazzino in gamba!» intervenne il donnone. «Dovrebbe essere fiera di lui!» Mise una mano nella scatola dei soldi e disse: «Prendi questo! Te lo sei meritato!» Guglielmo fu molto grato alla gentile signora del circo. Stare a testa in giù era molto scomodo. Mentre tornavano a casa, Guglielmo disse alla mamma: «Sai, credo che da grande farò il postino».